Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Oggi siamo in diretta da un posto bellissimo, meraviglioso. Siamo in Piazza Pasi a Trento, siamo qui per il Festival dell'Economia, che sarà proprio uno degli argomenti della prima ora del nostro sabato del villaggio. In questa prima ora però parleremo anche di tutti i film in uscita questo fine settimana, parleremo di tecnologia, parleremo con Enrico Pagliarini in particolare di questi spectacles di cui si dice molto in questi giorni e di cavi. Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano i cavi, ma partiamo così. Take me to the river, portami al fiume, e ho un po' l'impressione che mi porti al fiume, ma non solo, uno dei nostri amici preferiti del sabato del villaggio, che questa volta è straordinariamente in apertura di trasmissione, il nostro Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, buongiorno a tutti! Allora, bene. Noi qua a Trento stiamo benissimo, abbiamo anche mangiato benissimo, te lo confesso. Si mangia bene, soprattutto sì. Si beve bene, poi questo è un problema che vedremo poi. Ma tu mi hai portato al fiume e infatti l'argomento è pesce d'acqua dolce. Perché? Perché dopo tanto tempo, dopo tanti anni, è una tendenza emergente. Molti ristoranti oggi cominciano ad offrire il pesce d'acqua dolce, fino a ieri magari relegato solamente in aree di laghi soprattutto, ma oggi si trova molto bene anche nelle città, si trova un po' ovunque, anche ristoranti di alto livello oppure anche osterie. Quindi è un momento di tendenza. Allora di cosa stiamo parlando? Parliamo di carpa, di cavedano, di pesce persico, di lavarello, di luccio, di pesce gatto, di storione, di tinca, di trotta fario, di trotta arcobaleno, ma anche di salmone, perché magari molti si immaginano che il salmone sia un pesce di mare, no? Certo, è un pesce certo. Di acqua dolce, il salmone, che fa un viaggio molto particolare e abbastanza, come posso dire, complicato spiegarlo, però il salmone fa un viaggio nell'acqua dolce, quindi tutti quelli che mangiano salmone, magari alla sera, salmone affumicato, oppure anche salmone cotto alla brace, in padella, bollito, ecco, pensino che quel salmone lì arriva dall'acqua dolce e non arriva dall'acqua di mare. Ma Davide, io sono una ragazza di lago e quindi insomma sono abituata a mangiare pesce di lago, pesce d'acqua dolce, però tutti quelli che sono più abituati al mare sostengono che il pesce di acqua dolce non sappia di niente. Ma sai, questo non è assolutamente vero, perché ci sono dei pesci abbastanza importanti, perché non dimentichiamo che anche l'anguilla può essere considerato un pesce d'acqua dolce, quindi che l'anguilla sa di poco, o che lo storione sa di poco, o anche certe trotte, ma anche il lavarello, il lucio. Io posso dire che non meno di una settimana fa ho mangiato in quel di Mantova, all'osteria del Rifuso, che è lungo lago di Mantova, dove si mangia appunto pesce di acqua dolce, un risotto con pesce gatto e piselli davvero notevole. E devo confessare, non avevo mai mangiato il pesce gatto. Non l'ho mai mangiato. Lo consiglio, perché è un pesce di grandissima qualità. Quindi, secondo me, attenzione prima di dire questo. Poi ci sono delle trote molto, molto raffinate come carni, e molti di questi pesci vengono anche trattati in maniera molto particolare, affumicate. Ad esempio, si trovano delle ottime trote affumicate, e anche il salmone affumicato è un ottimo prodotto. Quindi, oddio, sicuramente ci sono dei pesci di mare che hanno un sapore molto più deciso. Questo è un sapore molto, molto più delicato. Però, ad esempio, chi mangia caviale e dice che è buonissimo, si ricordi che le uova di caviale arrivano dallo storione, ad esempio. Poi anche la carpa, insomma, la carpa, che sia che sia un pesce che sa di poco, io ho i miei dubbi. Però volevo tornare un po' in Trentino a proposito anche di pesce di acqua dolce. Perché? Perché in Trentino si trova abbastanza, non dico diffusamente, ma il salmerino alpino. Il salmerino alpino è un pesce molto delicato, molto raffinato, e chi è magari in zona in questi giorni per il festival dell'economia può andare alla Locanda Margon di Ravina di Trento, oppure in Malga Panna a Moemi. Ecco, qui ogni tanto questo pesce si trova, ed è un pesce molto delicato, fatto molto bene, cucinato molto bene. E voglio aggiungere anche altri indirizzi, perché magari non è che mi sono inventato io, che ho una tendenza. Ad esempio, a Milano c'è un ristorante che è balzato alla notorietà ultimamente, che si chiama Ratanà. Ecco, Ratanà è sempre, tutti i giorni, ha almeno un pesce di acqua dolce in menù, che sia trota fari o sia salmerino, comunque, o altri, l'ha in menù tutti i giorni. E voglio anche dare così una chicca. Di solito molti di questi ristoratori che mettono il pesce d'acqua dolce in carta sono dei pescatori, loro stessi. Ecco, Ratanà, Cesare Battisti, che è lo chef patron, è un pescatore, come lo è Antonio, del Cenacolo dei Pittori di Villa Raverio, Carate Brianza, sì. Dove veramente pesca lui direttamente pesce. Tutti i giovedì va a pescare nei diversi laghi, e fa una trota affumicata veramente dalle casse, i baffi, oppure anche un patè di lavarello altrettanto interessante. Non solo, in questo momento è nato anche un movimento che si chiama Movimento Gente di Lago, che è stato organizzato da uno chef bistellato, che è Marco Sacco, del piccolo lago di Verbania, che ha radunato attorno a sé tutta una serie di ristoranti che servono appunto pesce di acqua dolce, tra cui Leandro Lupi di Malcesine e molti altri. Quindi, insomma, è una tendenza vera, e non è così, è molto, molto momentanea. Sta crescendo, e sta crescendo come. Ma veniamo al Trentino. Ecco, abbiamo iniziato a parlare di Trentino, ci hai dato un suggerimento così dal punto di vista ittico, però insomma noi siamo qui a Trento, stiamo mangiando bene, e ci hai detto soprattutto si beve benissimo. Sai, il Trentino è veramente una regione molto vocata per il vino. Cominciamo con gli spumanti. Ecco, c'è un'associazione, un consorzio che si chiama Trento Doc, che raduna 45 produttori, ben 45 produttori, tutti produttori del metodo classico, quindi di spumante metodo classico. Cosa significa? Significa, diciamo, il nostro champagne, che questa zona qui, la zona del Trentino, è pari alla famosissima anche Franciacorta e all'Oltrepò Pavese, quindi è una delle tre aree più vocate in Italia per questo tipo di prodotto. Diciamo che il capofila che tutti conoscono è Ferrari, dei fratelli Lunelli, è un po' considerato come uno dei nostri ambasciatori delle bollicine italiane in giro per il mondo, e appunto Ferrari conosciuto, ma ce ne sono tantissimi altri in questo elenco, perché ad esempio Letrari è un altro produttore ottimo per le bollicine. Poi ci sono due cantine veramente molto importanti dal punto di vista anche quantitativo della dimensione, anche conosciute all'estero. Una si chiama Cavit e l'altra si chiama Mezzo Corona. Mezzo Corona fa uno spumante molto diffuso che si chiama Rotary, ma non solo spumante a metodo classico, ma anche ci sono tantissimi vini, ad esempio il Marzemino. Ecco, il Marzemino è un vino, come posso dire, molto importante anche dal punto di vista storico e delle leggende. Perché? Perché il Marzemino del Casanova di Mozart, in cui si parla di questo vino, del Marzemino, molti storici sostengono che la famiglia Mozart sia passata da Trento, ma sia veramente vissuta a Trento, e quindi riconnettono quel vino di cui lui appunto scrisse, e anche il libretto, pare che il libretto fosse scritto da qualcuno che era passato da Trento, mentre poi ci sono altri storici che sostengono che in realtà arriva da altra parte, arriva da un paese veneto che si chiama Refrondolo. Quindi c'è stato anche un processo addirittura su questo, tenuto a Isera qualche anno fa. Isera è un po' la patria del Marzemino trentino, e ci fu un dibattito tradotto poi in tribunale con il pubblico ministero, avvocato difensori, tra questi due comuni, questi storici di questi due comuni, che si contendevano la paternità. Di questo vino. Poi c'è ancora il Moscato Rosa, altro vino molto importante, c'è il Teroldego, un vino rosso di grande stoffa, quindi è una regione molto importante non solo per i vini, ma se andiamo oltre anche per la grappa. Ci sono diverse distillerie di grappa importanti, Marzadro e tanti altri, quindi è una regione che dal punto di vista alcolico è sicuramente una regione da rispettare, e come, perché come dicevo, vino, grappa, spumanti, insomma, chi più ne ha più ne metta, ci sono tantissime cose. Poi ci sono anche i formaggi, perché c'è il Trento in Grana, per esempio, formaggio abbastanza diffuso nella regione, è un formaggio che è un formaggio grana, di denominazione di origine controllata, tra l'altro è un DOP, e quindi una regione che dal punto di vista gastronomico offre molto, per non parlare poi sulle montagne, si mangia anche a Cacciagione e si mangiano altri prodotti importanti, le mele. Quindi insomma, sei capitata molto bene, credo che sia una regione. Sì, devo dirti la verità, io ho bevuto birra ieri sera. Visto che noi abbiamo parlato di birra sabato scorso, io ti confesso che sono tornata sulla birra, ho peccato. Però tra Canederli e ci stiamo veramente sbizzarrendo. Trento offre davvero tanto, tantissimo. Senti, tu hai parlato di bollicine, iniziando a parlare di vini. Abbiamo parlato molto dell'abbinamento delle bollicine l'anno scorso, perché c'è sempre questo dibattito a pasto o col dessert. Qual è la tua posizione al momento? Per carità, attenzione, qui c'è un SOS. Il Trentino, io ho parlato di Trento DOC, di metodo classico, mai e poi mai col dolce. Ecco. Le bollicine vanno benissimo a tutto pasto, però fino al dessert, poi al dessert si passa ad altro. Ti dirò che questa è stata anche una cosa non voluta, ma te l'aggiungo, che secondo me con il pesce d'acqua dolce le bollicine sono perfette. Soprattutto quelle trentine, di Trento DOC. È un abbinamento veramente che, come posso dire, si sposa benissimo. Mentre ovviamente per il dessert, ad esempio il Moscato Rosa, di cui ho parlato prima, che è uno dei prodotti, ma non solo. In Trentino c'è anche il Vin Santo, quindi sono due accostamenti perfetti, secondo me, per il dessert. Quindi se tu vai a mangiare stasera e mangi un dolce, chiedi o il Moscato Rosa oppure anche il Vin Santo, perché Vin Santo, tra l'altro, deriva, guarda, mi viene una reminiscenza importante, dal Concilio di Trento, concilio del 1400, ora la data esatta mi sembra 1492, posso sbagliarmi, quindi chiedo venia se sbaglio, ma ci vado abbastanza vicino. La parola Vinsanto nacque lì per la prima volta, perché? Perché uno dei vescovi greci, bevendo un vino trentino, un Vinsanto, pronunciò Xante, Xante, Xante, che tutti hanno inteso che fosse santo, in realtà santo. Era l'isola di Xante in Grecia, e questo vescovo greco voleva intendere che quel vino lì era lo stesso che si beveva nell'isola. Era quello di Xante. Che si... Ah, incredibile. Mamma mia, che scuola di cultura oggi, Senti, ho controllato, Concilio di Trento, prima che qualcuno ci corregga, 1545-1563, io sulle date non vado forte. Bene, ma allora... che bello questo aneddoto, abbiamo scoperto anche perché si dice Vinsanto, ma è straordinario. Bene, ho sbagliato di qualche anno, insomma, 1492 forse sono le... Beh, quella le la scoperta dell'America lo sappiamo. La chiesa di Wittenberg, comunque vabbè. Vabbè ragazzi, qui proprio sfoggio di cultura a non finire. Cultura, io sono rimasta... Esatto, sono rimasta conquistata da questa idea del Moscato Rosa, quindi credo che mi dedicherò al Moscato Rosa che mi ha davvero così incuriosito. È un vino molto come... raffinato, quindi assaggialo, perché è un vino molto raffinato, ci sono anche dei produttori ottimi, quindi lo troverai sicuramente in qualche ristorante, in qualche enoteca a Trento, e assaggialo veramente perché vale la pena. Ti dirò che è un... servito molto freddo, forse può essere servito anche come aperitivo. Che meraviglia, anche perché col caldo che fa oggi a Trento, in questa splendida, bellissima Piazza Pasi, ci starebbe proprio. Davide, allora la prossima settimana ci ritroviamo, la prossima settimana io sarò ancora in giro per l'Italia, poi vi diremo dove, quindi ti stuzzicherò ancora su un luogo molto importante, molto piacevole, una città che io amo molto, ma lo sveleremo più avanti. Grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, al prossimo sabato, ciao! Ciao, a presto! Noi facciamo una brevissima pausa, è il momento del traffico e poi parleremo di tecnologie. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il sabato del villaggio. What do you look through to see clearly? Help me, guys! Glasses, spectacles, prescription sunglasses, bifocals, goggles, monocle. I can see clearly now. I can see clearly. I've got my glasses on. I've got my glasses on. I can see the leaves on the trees. With my glasses. Allora, who's got the glasses? We've got the glasses. Chi ha gli occhiali? Noi abbiamo gli occhiali. Insomma, questo pezzo molto curioso, che io non conoscevo, di questi che si chiamano Wiggles, insomma, parla di occhiali. Io ho messo gli occhiali e adesso ci vedo benissimo. Io sono miope, ve lo confesso, ma so che questa settimana si sta parlando di occhiali un po' particolari, che non servono per vedere bene. Dappertutto l'argomento tecnologico del momento sono gli specchi. Calls. Ma cosa saranno mai? Per saperlo ci colleghiamo in qualche parte del mondo, non so dove sia lui, insomma da Trento un segnale mandato nell'universo, non so fino a dove, a Enrico Pagliarini. Ciao Enrico! Buon pomeriggio, ciao! Così, sempre dall'area 51, da qualche parte del mondo. Esattamente. Enrico, cosa sono gli spectacles? Ma in realtà potrei essere dietro l'angolo a Trento. Ah no, lì. Certo, infatti adesso ci fa una sorpresa e appare a Trento. Spectacles? Dunque, sono degli occhiali. Devo dire che sicuramente non hanno contattato la Luxottica per fare questi occhiali, perché devo dire che non sono bellissimi, non sono occhiali di design. Sono gli occhiali di Snapchat, questa app, questa applicazione di messaggistica molto utilizzata soprattutto da giovani teenager, insomma se ne è parlato molto anche perché recentemente è quotata in borsa. La notizia della settimana è che l'Italia è uno dei 13 paesi extra Stati Uniti dove questi occhiali sono in vendita da ieri. Sono occhiali semplicissimi, sono occhiali da sole, hanno due videocamere ai lati delle lenti e queste videocamere possono essere attivate per realizzare brevi video da 10 al massimo 30 secondi che poi, una volta che noi colleghiamo questi occhiali via Bluetooth al nostro smartphone con l'app di Snapchat, possiamo poi condividere con le persone che riteniamo, cioè, che sono nel nostro network. L'unico problema è che non sono bellissimi, certo servono per fare questi video, quindi se uno si vuole divertire a fare questi video magari mentre è in vacanza e condividerli con gli amici, il problema è che costano 150 euro, che non è pochissimo. Beh, no, ma io pensavo meno, insomma sono un aggeggino costoso. Infatti vedremo, negli Stati Uniti hanno avuto un discreto successo, non esageriamo, però pare che ne abbiano venduti 60.000, che non è un numero altissimo. Beh, sì, comunque, sì, questa è la notizia della settimana. Volevo invitarvi a trovare o una canzone che parla di cavi, oppure che ne so, chiedere tipo a Gianluca Grignani. Gianluca Grignani non potrebbe fare una canzone sui cavi? Perché Gianluca Grignani? Non lo so per quale motivo, però secondo me lui ci potrebbe stupire, perché volevo parlare brevemente di cavi. Noi non so tutti come i giorni... mai, vabbè, lo chiederemo a lui, perché evidentemente Pagliarini tanto è un prima fan. Prima o poi lo incontri, no? Ma certo, certo. Allora, volevo parlare di cavi, perché noi tutti i giorni, in qualche modo tocchiamo dei cavi, o quelli delle cuffiette, o soprattutto quelli del nostro alimentatore, cioè del caricabatterie. Noi siamo pieni, Sì. Sì, sì, il mondo si è riempito di questi aggeggi. Allora, c'è un piccolo problema, che sta diventando un piccolo problema a oggi. Allora, 3 anni fa un consorzio internazionale ha ideato, tanto per complicarci un po' la vita, un nuovo tipo di connettore chiamato USB tipo C. Noi tutti conosciamo l'USB. Aspetta che lo cerco su internet così vedo la foto. Sì, USB sì, tipo C. Okay. Allora, facilissimo da riconoscere, perché dopo tre anni si sta cominciando a diffondere, è un tipo di connettore, così come l'USB che conosciamo oggi, un tipo di connettore che può essere utilizzato sia sui computer portatili, sui computer di qualsiasi genere e anche ovviamente sugli smartphone. Ultimamente i produttori di smartphone, soprattutto quelli che hanno prodotti di fascia medio-alta, stiamo parlando del mondo Android, non c'entra nulla il mondo Apple, che ha altro tipo di connettori, hanno cominciato ad introdurre questo tipo di connettore. Gli ultimi sono stati quelli di Samsung con l'S8, un telefono che vedremo poi dai dati di mercato che cosa ci riserverà, però molto probabilmente sta finendo nelle mani di molti consumatori. Ecco che cosa succede. Allora, intanto, per capire se un telefono ha un USB tipo C o un USB tradizionale, tipicamente un micro USB, quella piccolina, lo si capisce facilmente perché il connettore si inserisce nella presa USB senza un verso particolare. Allora, sappiamo che oggi Fantastico, che si dice sempre che l'USB ha tre versi, perché da una parte sbagli, dall'altra sbagli, la terza volta lo... Ci è una becchi. Battuta, perché ovviamente ne ha solo due, però si dice certo. che è sempre al terzo tentativo, misteriosamente. Ecco, invece la novità, oltre ad essere più veloce, più moderno, tecnologicamente più avanzato, l'USB tipo C, finalmente questi del consorzio hanno detto vabbè, facciamolo che sia reversibile, cioè che non abbia un verso particolare. Quindi lo si capisce da qui se uno ha l'USB, cioè se uno non ha l'occhio clinico per vederlo con l'occhio, uno prova a infilarlo, se non ha un verso, quello è USB tipo C. Allora, quali sono i problemi che nascono? Allora, primo problema, se tu vai da un amico oppure vai in un ufficio e dici scusate, mi date un caricatore per caricare il mio telefonino? Certo. Probabilmente hanno tutti i caricatori micro USB e tu rimani senza cavetto, a meno che ti porti dietro il tuo caricatore. Allora, alcuni consigli che cosa fare, perché non, diciamo che la strada è quella, molto probabilmente i produttori di smartphone stanno cominciando dai top di gamma in questi ultimi mesi, direi, qualcuno già un anno fa, insomma diciamo che in questi ultimi mesi, poi questi top di gamma già in autunno cominceranno probabilmente a non essere più top di gamma, a scendere di prezzo, e mano a mano questo tipo di connettore diventerà popolare anche sugli altri smartphone, quindi è molto probabile che dopo 3 anni si comincia a diffondere questo tipo di connessione. La prima cosa che si può fare è comprare a veramente pochi euro un connettore, cioè un adattatore a questo connettore, cioè un adattatore che trasforma la micro USB e quindi il vecchio alimentatore. Magari ci sono persone che hanno in casa più di un alimentatore per ricaricare i telefonini, oppure che l'hanno uno in ufficio, uno da un parente, insomma ne hanno sparsi un po' in giro. Allora, comprando questi adattatori a pochi euro, uno già si mette al riparo e può ricaricare questo telefono. L'altra soluzione è comprare un alimentatore nuovo con il relativo cavo, però ovviamente questo è un po' più dispendioso. La soluzione mediana, diciamo così, è comprare il solo cavo. È per quello che oggi l'argomento principe è il cavo. Comprare solo cavo, perché sappiamo benissimo che quasi tutti gli alimentatori hanno una entrata classica USB, quella grossa, quella di una volta, la prima conosciuta, e dall'altra parte finiscono dalla il micro della USB. Scatoletta, diciamolo. Sì, sì, sì. E invece dalla parte dello smartphone finiscono con la micro USB. In questo caso compriamoci un cavetto che così funziona anche con i nostri nuovi telefoni o quelli che verranno. Attenzione, perché non tutti i cavi, diciamo, sono cavi di serie A, e quindi direi che se siamo di fronte a un cavetto che costa pochi euro, cioè parlo di 2-3 euro, un po' siamo sospettosi. Questo direi che può valere in generale quando ci sono cose che costano un po' troppo poco, uno deve sospettare qualche cosa. Nel caso specifico dei cavi, ci sono cavi di qualità abbastanza pessima, e quindi magari spendendo qualche euro in più, un intorno di 10 euro, 15 euro, una cosa del genere, non molto di più, magari ci compriamo un buon cavo per ricaricare. Alcuni potrebbero domandarsi, ma tanto tempo fa si era parlato di una rivoluzione in arrivo, cioè della ricarica a induzione, e invece oggi voi state parlando di cavi. Questa è una promessa che ancora non è stata mantenuta, perché devo dire, ma lo vediamo, lo sperimentiamo, lo tocchiamo tutti i giorni, cioè la ricarica a induzione ancora non si è diffusa, nonostante alcuni telefoni permettano di fare questo tipo di ricarica, ma gli alimentatori, insomma i caricatori, chiamiamoli così in modo gergale, che permettono questo tipo di ricarica non si sono diffusi. Sarebbero interessanti, perché uno arriva, appoggia solo il telefono, quindi non deve inserire nessun tipo di cavo. Sono quelli fatti come se fossero piattini, no? Dei piccoli fornelletti. Esatto, che comunque devi attaccare all'elettricità, diciamolo, certo, anche quelli vanno attaccati all'alimentazione, e tu semplicemente appoggi. Secondo me non si sono tanto diffusi, perché detto tra noi, una volta che hai il cavo, attaccare il cavetto al telefonino o appoggiarlo sul piattino, diverso. Più rapidi, non hanno dei benefici, non lo so. Poi te lo dice una che lo sai benissimo, è vero che io una volta, lo confesso agli ascoltatori, quella volta che mi si è rotta la presa e che non mi si caricava più il telefonino ed ero in capo al mondo, l'avessi avuto sarei riuscita a ricaricare il telefonino, perché mi si era rotto proprio il buchino dell'alimentazione del cavo del telefonino, ma questo col senno di poi, avessi avuto il caricatore a induzione, come mi piace questo termine come i fornelli sostanzialmente. Come i fornelli. Sì, che anche i fornelli non è che si siano diffusi moltissimo, siamo un paese molto legato al gas e poco all'elettricità, e quindi questo è uno dei motivi per cui i fornelli ad induzione non si sono diffusi. Non so quanto manca alla fine del nostro collegamento, però volevo possiamo ancora chiacchierare un minuto. Po' perché abbiamo ancora qualche minuto, perché anch'io ho delle cose da chiederti, perché tu hai detto chiaramente che tutto il discorso che abbiamo fatto non riguarda i telefonini Apple, perché lì è tutto un altro mondo. Tutto un altro mondo, sì sì. E quindi, quindi questo discorso non è fatto per i nostri amici di Apple. Per i quali non c'è nemmeno l'imbarazzo della scelta nello scegliere il cavo, perché lì i cavi... Perché lì, caro, devo dire originali. Che su alcuni computer portatili Apple utilizza USB tipo C, però in quel caso stiamo parlando della connessione solo per il trasferimento dei dati. USB tipo C sostanzialmente inaugura una nuova era per la connessione tra un computer e un altro, che ne so, un disco portatile, tra il computer e lo smartphone, e permette di avere una velocità di trasmissione di dati molto più elevata. Però non stiamo parlando di alimentazione, oggi invece abbiamo parlato prevalentemente di alimentazione. Detto questo, USB tipo C ovviamente è anche un tipo di connettore che viene utilizzato e può essere utilizzato anche per il trasferimento di cavi, quindi a maggior ragione per il trasferimento di dati, scusa, a maggior ragione se noi compriamo cavi di buona qualità stiamo tranquilli che tutto funziona per il verso giusto e anche il trasferimento dei cavi avviene alla velocità che c'è scritta nelle specifiche dei cavi che noi andiamo ad acquistare. Volevo approfittare di questi minuti, poi se avete delle domande sono qui a disposizione, però visto che prima avete parlato del Concilio di Trento, delle date eccetera eccetera, e sono quasi sicuro che la fonte a cui vi siete affidati è Wikipedia, che noi ringraziamo ogni giorno. Guarda, perché essere, è una fonte per essere, fantastica. Esatto, per essere rapida ho buttato la data su Google e ho controllato, perché io sulle date non vorrei fare proprio figuracce così in diretta. Però visto che Wikipedia è una fonte veramente fantastica ed è il più grande esempio di crowdsourcing del mondo, cioè tante persone, migliaia, milioni di persone nel mondo che contribuiscono alla enciclopedia. Devo dire che già in lingua italiana questa enciclopedia è fantastica e nella stragrande maggioranza dei casi estremamente affidabile e utile, ma poi in lingua inglese si trova veramente di tutto. Allora volevo invitare i nostri amici che ci stanno ascoltando, se siete utilizzatori di Wikipedia o se non lo siete vi invitiamo a farlo, perché si scoprono anche molte cose bellissime. Wikipedia, la fondazione di Wikipedia è per tutto l'anno alla ricerca di fondi, perché comunque per mantenere tutta l'infrastruttura, i server, alcune persone che negli Stati Uniti lavorano per questa fondazione, perché non è che tutto ciò viene fatto solo da volontari, magari una donazione di qualche euro, 10 euro, 50 euro, la possiamo fare alle associazioni alle quali siamo o abbonati, associati, ma anche a Wikipedia. È una cosa che secondo me ci dimentichiamo troppo spesso, cioè utilizziamo questo servizio gratis come molte altre cose che ci sono in rete e non ci rendiamo conto del grande lavoro e anche insomma delle infrastrutture che ci sono dietro per mantenere tutto questo valore inestimabile che Wikipedia dà alla società. Sono perfettamente d'accordo con te. Io qualche urino tutti gli anni lo do, perché insomma mi sento molto grata perché la uso particolarmente. Sì. Enrico, siccome abbiamo ancora un paio di minuti, ci racconti un po' cosa è successo questo fine settimana in 2024, prima, così convinciamo anche gli ascoltatori ad andare a scaricare il super podcast, perché noi super le altre podcast. Trasmissioni di Radio 24 hanno podcast normali, invece Enrico Pagliarini ha il super podcast. Dunque, in regia qualcuno ride, non ti dico chi, ma qualcuno ride in regia, ride tanto in regia. Ma è bello super podcast, io lo invidio podcast. Tantissimo Enrico Pagliarini col super qualcuno che fa il verso al supereroe, cioè tipo Superman. Vabbè, allora il super podcast di 2024. Certo, il podcast fatto dagli ospiti di 2024, che in qualche modo super un po' lo sono. Noi ci siamo un po' complicati la vita, abbiamo cominciato a trattare in modo approfondito, cercando anche alcune risposte che ancora non esistono, ma ve le daremo nelle prossime settimane, anche al Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato di roaming in Europa. Che è bellissimo, perché ragazzi stiamo quasi per partire per le vacanze, ragazzi, se andiamo in vacanze in Europa dobbiamo prepararci. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di barche a vela, poi abbiamo parlato anche di wifi sugli aeroplani, perché gli aeroplani sono una delle poche cose dove ancora non c'è internet, ma in realtà ho scoperto facendo un po' di ricerche che nel mondo ci sono già 6.000 aeroplani, soprattutto grossi aeroplani che fanno rotte transoceaniche intercontinentali, che hanno ormai hai il wifi a bordo. Per portare wifi a bordo degli aeroplani serve un'infrastruttura complicatissima che ha bisogno di satelliti, e questa settimana c'è stato un lancio di alcuni satelliti molto grossi, molto capienti, e cioè che hanno una connettività, pensate che uno ha 300 megabit di banda passante, servono questi satelliti. Abbiamo fatto un breve approfondimento su questo perché questa è una nuova frontiera della rete internet portata anche sugli aeroplani. Io sono pazza del super podcast di Enrico Pagliarini di 2024 e soprattutto la parte, vabbè, gli aerei appassionantissimo, ma la parte sul roaming in Europa a me interessa particolarmente perché appunto tutti quelli che stanno per partire in vacanza, ma secondo me non basterà una puntata, torniamo a parlarne anche nel sabato del villaggio perché è un argomento complesso ed estremamente utile e affascinante. Allora Enrico, l'appuntamento invece con 2024 come sempre venerdì sera, e poi c'è anche una versione domani 13:30. Sì, perché io l'ascolto anche quando va in onda vero e vivo sulla radio e non solo il super podcast. Grazie Enrico Pagliarini, grazie ciao per essere tutti, stato con noi in diretta. Ah, guarda, noi ci divertiamo per forza qui da Trento. Allora, vi dico anche che avremo un sacco di ospiti qui fino alle 18 tra Sabato del Villaggio e poi RadioTube. Allora, tra poco parliamo dei film in uscita il fine settimana, ma parleremo anche dei contenuti del Festival dell'Economia, perché non ne abbiamo ancora parlato, ma siamo qua per tutto il fine settimana. Anche domani Radio 24 sarà qui da Piazza Pasi a Trento. E poi ci sarà con noi una bandiera di Trento e del Trentino, che è Francesco Moser. Avremo un'intervista che abbiamo realizzato questa settimana. Non è potuto venire a Trento perché poi vi spiegheremo dove si sta per chiudere in studio a scrivere e a cominciare a girare con Stefano Accorsi nella seconda ora del Sabato del Villaggio. E poi invece parleremo nell'ora di RadioTube, io non lo sapevo perché non sono un'esperta di basket, ma ho scoperto che a Trento il basket sta andando fortissimo, quindi avremo con noi a RadioTube, insieme al grandissimo appassionato che è Daniele Bellasio, un grandissimo campione di questa squadra di Trento che ha veramente fatto un grosso risultato ieri sera. Tutto questo però tra poco in diretta qui da Piazza Pasi di Trento fino alle 18 con il Sabato del Villaggio e con RadioTube. Adesso invece è il momento di andare come sempre ogni fine settimana a sentire cosa sta uscendo e cosa è uscito al cinema. Il Sabato del Villaggio. Benvenuti in Baywatch. La nostra squadra è l'elite dell'elite. Siamo il cuore e l'anima di questa spiaggia. Pit, fammi i pettorali un po' più grossi e non mi coprire il pacco. Contaci, bello grosso. Bello grosso. Ehi, sirenetta, sei qui per le prove? Non faccio selezioni, sono Matt Brody. Due medaglie d'oro. Matt Brody, sì. E continua a non fregarcene un cazzo. Mi stai guardando le tette per caso? Io... Non qui, qui. Grande! Perché sembra sempre che corra a rallentatore? Ecco perché credo in Dio. Da questo brevissimo estratto di uno dei film in sala questo fine settimana capisco che siamo un po' in tema nostalgia canaglia. Mi sembra di aver riconosciuto Baywatch, quindi mi sa che sta tornando questa volta al cinema. Allora chiediamo tutto al nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao, un saluto a tutti. Nostalgia canaglia davvero questa settimana per chi è nato negli anni 70 e per chi è nato anche negli anni 80, perché c'è una bella coppia di telefilm di quelli veramente un po' trash di quegli anni, parliamoci chiaro, Wonder Woman e poi anni dopo, almeno 10-15 anni dopo è toccato a Baywatch, che arrivano nelle sale cinematografiche sotto forma di film, due film nuovi con molte differenze qualitative e anche interpretative fra di loro. Cioè, mentre Wonder Woman rimane anche sul grande schermo un film, come dire, che si prende terribilmente sul serio e che quindi va va verso un naufragio stilistico e qualitativo senza precedenti, Baywatch secondo me tutto sommato è abbastanza da salvare, perché invece fa un'operazione diversa. Siccome già Baywatch la serie televisiva era qualitativamente oscena, direi, grosso modo, cioè non lo guardavi per quello, ecco, noi maschietti vedevamo Pamela Anderson e le sue corse tutte ballonzolanti, le femminucce guardavano i fisici scolpiti dei bagnini a partire da Hasselhoff, però insomma, ecco, non è che andavamo lì perché pensavamo alla fotografia o all'inquadratura del regista. Questo spirito viene preso anche durante, proprio in questo film, ci si mette lì le montagne umane di Dwayne Johnson e i muscoli comunque scolpiti di Zac Efron, le bagnine, lo dico amici uomini, sono bellissime ma stanno abbastanza di contorno, però sono succinte, quindi va bene il giusto, e sapete che andate a beccarvi un'ora e mezza di gran guignol, di goliardia, di cose totalmente improbabili nelle quali non guarderete chiaramente la qualità di ripresa o la continuity, come dicono quelli che se ne intendono, ma guarderete e vi divertirete 3-4 volte, riderete addirittura, che mi sembra già abbastanza, ricordando il tempo che è stato. Quindi la nostalgia che tu hai citato, Marta, mi sembra veramente la chiave per interpretare questo Baywatch. Da due supereroine, diciamo, cinematografiche dell'immaginario a una vera eroina del cinema, perché questa settimana in sala torna Catherine Deneuve. C'è Catherine Deneuve in Quello che so di lei, titolo italiano per l'originale Sage Femme, che sarebbe l'ostetrica, che è l'altra protagonista, Catherine Fro, un'ostetrica che ha vissuto sempre una vita molto modesta, attenta, eccetera, e nella cui vita appunto irrompe questa donna più anziana di lei, che è stata 30 anni prima l'amante del padre, che è portatrice di una vita totalmente sregolata e soprattutto di qualche segreto che non era ancora emerso. Le due donne inizialmente si detesteranno, sono troppo diverse, pian pianino entreranno a far parte l'una della vita dell'altra e forse si scambieranno anche qualcosa. Grandissima prova di Catherine Deneuve, davvero straordinaria, film assolutamente da non perdere. Franco, una chicca che vuoi segnalarmi, un film da tenere d'occhio, cosa ci consigli di andare a vedere questa settimana? Guarda, ti voglio segnalare questo film italiano che si intitola I figli della notte, firmato da Andrea De Sica, un cognome importante, è il figlio di Manuel, il compositore, ed è il nipote quindi di Vittorio, 35 anni, esordio alla regia, assolutamente riuscito, sebbene in una certa come dire, imperfezione, ma comunque un film, è un tentativo straordinario quello di fare un film di genere, un noir con venature horror su un collegio maschile nel quale vanno i rampolli dell'alta società, nelle quali succede veramente di tutto, e soprattutto succede di tutto nel bordello che sta lì di fronte, al di là del bosco, e che di nascosto i ragazzi raggiungono di notte cercando di evitare, dribblare la marcatura stretta dei loro tutori. È un film che occhieggia a un certo Kubrick come atmosfera, come stile, ovviamente riportato all'oggi, quindi senza blasfemia, però un film che ci consegna di nuovo la capacità di un cinema italiano di fare genere dicendo anche qualcosa, e quindi davvero da promuovere. Dunque, grazie Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao, ci sentiamo alla Rosa Purpurea, ci saranno come sempre tante interviste, quindi restate con noi dalle 18 in poi, un'ora di il sabato del villaggio. E rieccoci qui in diretta da Piazza Pasi a Trento, la nostra postazione è bellissima, l'ho postata prima dell'inizio del nostro sabato del villaggio su Twitter, siamo anche un sacco di persone, poi ringrazierò tutti perché davvero per fare una esterna del genere ci vogliono delle belle forze, delle belle energie, ma qua veramente abbiamo una squadra super. In questa squadra super c'è anche il nostro straordinario Andrea Ferro. Straordinario. Andrea, Marta, Ferro. Allora, Andrea, tu hai seguito il Festival dell'Economia fin dal primo giorno, ti sei seguito tutti gli incontri più o meno? Gran parte. Tutto è impossibile. Ho cercato di selezionare sulla base anche delle esigenze di copertura per i giornali radio. provato a fare il cronista. Qui, qui Andrea Ferro e gli ascoltatori di Radio 24 sanno, sanno che è uno che ne sa. Tra l'altro, diamo l'appuntamento sempre con hashtag autotrasporti il lunedì alle 13.45, che è il tuo approfondimento su un tema davvero interessante. Ci sono tantissimi nostri ascoltatori che lo amano particolarmente. Ma com'è l'atmosfera qui al Festival dell'Economia? Fa caldo, no? Mamma mia, che meraviglia! No, questa baita montana. Cioè, sì, questa baita, sì. No, allora, l'atmosfera è assolutamente interessante, perché si vede che questo è un argomento che tocca da vicino le persone. D'altronde si parla di salute, quindi tutti abbiamo a che fare con la salute, con le cure, con la necessità di ricorrere. Perché il tema di quest'anno del Festival dell'Economia è legato alla salute disuguale, che già contiene, voglio dire, un contenuto questo titolo, cioè praticamente ci dice che le condizioni per curarsi e quindi anche le aspettative di vita sono profondamente diverse all'interno della stessa città nella quale si vive. Pensa un po', ci sono degli studi che dicono che sostanzialmente in un quartiere popolare rispetto a un quartiere benestante si vive 5 anni di meno. Accidenti. E chiaramente poi questi numeri, queste proporzioni vanno viste in un ambito globale, quindi le differenze si allargano, questa forchetta si divarica ulteriormente se ci spostiamo in altre aree del mondo. Ma la cosa, il dato che in qualche modo ci può impressionare di più è che la salute è disuguale anche nei paesi industrializzati, nei paesi ad alto reddito quale è il nostro, e questo viene focalizzato chiaramente sotto vari punti di vista con il contributo di esperti. Sono 200 gli oratori, giusto per rendere anche un'idea statistica del livello organizzativo di questo festival, oltre che dei contenuti. Ci sono anche 200 giornalisti accreditati, vengono pure dalla Cina, pensa un po'. E questo rende quindi l'idea della complessità e della eterogeneità, diciamo così, dell'approccio a questo tema. Devo dire una cosa che è molto interessante: io vedo un sacco di persone interessate proprio perché sembrerebbe a un primo sguardo che l'idea di un Festival dell'Economia possa essere una cosa per esperti, per economisti, per studiosi. Invece si parla della vita di tutti. E beh, ma ti ricordi quando noi abbiamo iniziato un po' a fare questo lavoro, la pagina economica, parliamo di ahimè, non lo diciamo, di qualche decennio fa. Vabbè, insomma, la pagina economica non era una pagina centrale nei quotidiani, ma anche nel, diciamo così, nel palinsesto di nella scaletta, nel timone di un telegiornale, di un giornale radio. La notizia economica in genere arrivava in fondo, magari prima dello sport. D'altronde anche il timone, la fogliazione stessa dei giornali era concepita in questa maniera. Certo, oggi invece la notizia economica fa irruzione in prima pagina e spesso è la notizia di apertura. E chiaramente questo significa che non è solo un ragionamento per addetti ai lavori, ma incide sistematicamente, organicamente nella nostra quotidianità. E parlando di salute e economia, perché inevitabilmente la salute è anche una questione economica, come dicevamo prima, dipende anche la possibilità di curarsi chiaramente dalle disponibilità e anche dal livello di istruzione, quindi inevitabilmente l'attualità. Nel frattempo c'è un cane che c'è un cagnolino molto carino che sta litigando, credo, con un altro cagnolino. Ci sono anche i vasi, speriamo che non approfitti. Andrea Ferro, vabbè, faccio cronista, voglio dire. E subito va subito la cronaca. Peraltro mi sei arrivato anche un po' trafelato. Sì, scusami, anzi mi scuso se ho ancora un po' di fiatone, ma sta parlando Padova, a 100 metri da qui. Quindi bruciamo i giornali radio, già no, raccontami. No, sono già uscite un po' di agenzia, anzi io ho provato ad andarla a cercare al binario 3 oggi. No, dai, sei andato a cercare di... Sì, Freccia Argento delle 12.39 in arrivo. Tu eri il vero cronista. Beh, ho fatto finta di salire sul treno, in realtà poi ho tirato fuori il microfono e poi uno, sai, queste guardie. Sì, t'ha menato? Sì, mi ha dato uno strattone, ma sai, questi qui ha visto tanti film, questo qui evidentemente l'ha visto fare nei film, mi ha dato anche una spallata, non è stato spiacevolissimo e neppure professionale. Queste cose tra i bodyguard e i giornalisti succedono, quindi insomma in questo momento immagino stia ancora parlando. Una breve sintesi di quello che ha detto, sostanzialmente ha detto che siamo nella direzione giusta. Chiaramente l'appoggio arriva, e l'assist per così dire arriva dalla notizia del PIL che sale oltre le previsioni. Ha detto, anzi, molto probabilmente chi verrà dopo di me, e qua c'era già una notizia, quindi vuol dire che lui non si sente futuro ministro dell'economia, magari l'anno prossimo dirà che il PIL è cresciuto ulteriormente rispetto alle aspettative. Quindi in un'atmosfera, diciamo così, sta parlando in un'atmosfera di ottimismo, dice che sostanzialmente la direzione giusta è quella intrapresa anche per quanto riguarda le riforme, che ormai quindi è un cammino intrapreso e prescinde quindi dalle contingenze politiche, quindi anche se si va a votare secondo lui non ci saranno sconquassi sotto questo profilo. Poi peraltro Padoan, lo conosciamo, non è persona che si sbilancia troppo, infatti non ha voluto neppure parlare con i giornalisti prima, parla solo dal palco, evidentemente preferisce, ecco, evitare domande, evitare magari anche su qualche banca, vabbè, voglio dire, ognuno fa, diciamo così, fa il proprio mestiere. È molto contento per il risultato di Macron, che dice un grande risultato per il programma filo europeo, insomma, diciamo così, sta rendendo un quadro beneaugurante del nostro sistema. Mentre saluto l'ascoltatore, sì, che continua a mandarci messaggi al 349-238-6666 arrabbiatissimo. Perché? C'è solo un ascoltatore molto arrabbiato che non abbiamo cambiato con noi? Sì, perché non abbiamo fatto uno speciale, non abbiamo tolto tutto per parlare solo di Champions League. Ma non gioca la Sampdoria, non gioca. Quindi... E quindi esatto, non gioca la Sampdoria. Ha giocato 25 anni fa. Quindi basta. Non giocherà mai più. No, raccontaci un po' cosa succederà stasera, domani. Perché secondo me qualcuno è ancora in arrivo a Trento. Cosa c'è di interessante da segnalare? Se vale la pena di seguire questo rush finale, questa coda, perché lo ricordiamo, il Festival dell'Economia chiude domani. Più tardi si parlerà di un tema ricorrente nelle cronache di queste ultime settimane e che ha fatto irruzione ieri, in particolare con il ministro Lorenzin qui a Trento. Il tema è quello dei vaccini, ne parlerà Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Italiano Superiore di Sanità. Poi domani, ultima giornata, lo ricordo, Federico Rampini, che è editorialista e corrispondente della Repubblica da New York, racconterà l'America di Trump. Poi nel pomeriggio tornerà qui a Trento Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, diciamo per un ragionamento a 360 gradi sulle prospettive del paese. Ecco, questi sono i momenti clou, però in realtà se io dovessi leggere il programma avrei bisogno di 5 minuti. Poi ricordiamo anche che domattina chi fosse qui in giro a passeggiare, magari a far colazione in centro a Trento, torna il nostro Alessio Maurizi con Si può fare in diretta. Certamente. Quindi per sapere le notizie, per leggere i giornali in diretta domattina, c'è il nostro Alessio Maurizi in diretta con Si può fare. Allora Andrea, tu immagino che andrai ancora a cercare di rincorrere Padoan, giustamente, ormai, perché... prendere un'altra spallata. Voglio dire, un conto aperto con questo componente Nauski. No, ti ritroviamo nei giornali radio di Radio 24 per parlare del Festival dell'Economia, ti ritroviamo lunedì alle 13.45 con hashtag autotrasporti, perché anche questo, insomma, è un argomento... Se sono venuto in camion. Hai parcheggiato qua il camion in 130. Ho avuto qualche problema, credo di aver chiuso qualcuno, però vabbè, Festival dell'Economia... Grazie ad Andrea Ferro per essere stato con noi e anche per aver preso qualche strattone, qualche bottarella, ma il cronista. Medaglia al merito. Il cronista lo fa. Allora, grazie Andrea per essere stato con noi. Noi tra poco diamo la linea al giornale radio delle 16, ma cominciamo ad anticiparvi un po' quali saranno gli appuntamenti della seconda ora del nostro Sabato del Villaggio, visto che poi staremo insieme fino alle 18. La terza ora è quella di Radio Tube con Daniele Bellasio. Nella seconda ora, allora, qualche giorno fa ci è venuto a trovare Stefano Accorsi e allora ascolteremo questa intervista molto gustosa che abbiamo fatto a Milano. Avremo con noi invece qui a Trento una leggenda dello sport, una bandiera di Trento e del Trentino, Francesco Moser, e poi parleremo secondo me di uno dei gioielli di Trento ma anche di Rovereto, che è il Mart. Tutto questo tra poco, perché ora abbiamo le importantissime informazioni di GR24 e poi saremo ancora insieme da Trento. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il sabato del villaggio. Ed eccoci con la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio in diretta di Radio 24. Siamo in Piazza Pasi, splendida Piazza Pasi, nella splendida Trento, veramente una città Non lo so, veramente bellissima, che conquista. Allora, noi siamo qui con il Sabato del Villaggio per parlare di Festival dell'Economia, ma non solo, perché abbiamo un sacco di argomenti che riguardano anche questa splendida città. Di cosa parleremo nella seconda ora del nostro Sabato del Villaggio? Beh, avremo con noi una grande leggenda dello sport e una bandiera di Trento e del Trentino, Francesco Moser. Ci collegheremo con Alessandra Tedesco, come sempre, per i libri del momento. Siccome parliamo sempre tanto di serie TV nel Sabato del Villaggio, questa settimana abbiamo incontrato, per avere un po' di retroscena su 1993 in attesa del finale di stagione la prossima settimana, Stefano Accorsi. Con lui abbiamo parlato di 93, certo, ma non solo, in un'intervista molto gustosa che sentiremo più tardi. Ma partiamo così. Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavaliere misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. S'ode un grido nella pampa. Carmen Sita, abita qui! Tre tipaci l'hanno presa, mentre andava a fare la spesa. Dove, dove, dove la donna? Ma perché parliamo di Caballero, Carmensita, Paulista? Facciamo che ve lo svelo dopo. Allora, abbiamo parlato di grandi ricchezze di Trento. Secondo me, uno dei gioielli di Trento e della sua provincia è uno straordinario museo. Allora, stiamo parlando del MART, che è il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. E per sapere di più di questo museo, di tutte le mostre bellissime che stanno iniziando, che sono in corso, ma anche che stanno per iniziare per quest'estate, ci colleghiamo con il direttore del museo, Gianfranco Maraniello. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buon pomeriggio a lei, gli ascoltatori. Beh, intanto sono contentissima perché il MART ha un direttore molto giovane e questa cosa mi fa estremamente piacere, perché mi sa di grande entusiasmo e di grande voglia di fare cose belle. Io ho già scelto quale sarà la mia mostra preferita, dall'audio qualcuno avrà già capito di cosa parleremo, ma non lo voglio svelare ancora. MART, Museo d'Arte Moderna Contemporanea di Trento e Rovereto, quindi siamo sia a Trento che a Rovereto, direttore? Ma in un contesto non metropolitano, ma il caratteristico paesaggio del Trentino, dobbiamo pensare che le aree non si misurano per municipalità, e quindi il MART, come nella sua denominazione lo ricorda, e tra l'altro stravolgendo anche l'acronimo, perché Museo Arte di Trento e Rovereto, MART anziché MATR, quindi evidentemente si è voluto, forse fin dalle sue origini, far capire che qui è un unico. È un museo quindi che ha un'attenzione territoriale, ma anche una grande ambizione di essere un punto di riferimento, come è nazionale e internazionale. Allora, museo con opere insomma assolutamente meravigliose, la collezione permanente include, ho letto, oltre 15.000 opere, quindi stiamo parlando veramente di una collezione davvero significativa. Sì, ovviamente non possiamo esporle tutte, perché per certo, quanto il museo abbia delle dimensioni e delle caratteristiche davvero importanti, progettate da Mario Botta e Giulio Andreolli, e si tratta però insomma di una scelta che abbiamo ritenuto potesse essere significativa soprattutto in relazione al grande Novecento italiano, e quindi non dobbiamo dimenticare che il MART possiede una delle più importanti collezioni del futurismo, ma anche di tutto quell'altro Novecento legato alla metafisica, al surrealismo, a tutti quei movimenti non così legati all'idea dell'avanguardia dell'arte, ma anzi a volte a trovare dei valori come quelli della bellezza, che spesso l'arte contemporanea dimentica e che invece fondano una tradizione molto italiana di cui il MART vuole essere rappresentante. E poi mostre, mostre in corso, mostre che si stanno per concludere, ma soprattutto mostre che si stanno per aprire, che ci possono tenere compagnia quest'estate. In tanti verranno in vacanza in Trentino, io verrò anche apposta per vedere le mostre, ma insomma, che cosa ci offrirà il MART nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Intanto sono in via di conclusione due mostre molto importanti, quindi questi sono gli ultimi giorni per ammirare opere di Sironi dalla collezione All'aria, e poi ci sono le opere della celebre collezione Panza di Viumo, nonché un progetto importantissimo realizzato da Grazia Toderi, che è una importante videoartista italiana, a quattro mani assieme al celebre romanziere Orhan Pamuk, un modo per visualizzare le stelle, lo spazio celeste attraverso opere di materiali come sono quelle video, che in questo caso hanno intrecciato la scrittura di Pamuk. Ma io so dove mi vuole portare lei, l'ho annunciato. Così. Ho già espresso una mia preferenza, cioè quando ho scoperto che state per inaugurare questa mostra, io sono impazzita, cioè è veramente quello che io aspettavo da un sacco di tempo, e so che lei l'ha anche curata di personalmente, quindi capirà la mia attesa, il mio entusiasmo. Allora, diciamo subito, intanto che tre settimane prima della mostra che lei ha annunciato creando questa aspettativa, inaugura comunque un'importantissima mostra che abbiamo realizzato assieme al Museo di Madrid, dedicato ai capolavori dell'Italia del primo Novecento, il tema del canone e della bellezza nella pittura italiana, e non vorrei che si trascurasse questo appuntamento davvero importante. Mi sentirei un po' in colpa, anche perché poi è una mostra di grandissimo valore. Dopodiché ha ragione, arrivo al punto, anch'io mi sono divertito moltissimo, non sempre ci si diverte a preparare le mostre d'arte, però è vero che dal 22 luglio sostanzialmente il MART presenterà un'ampia visione della creatività, direi, di Armando Testa, quindi di un genio non solo della comunicazione pubblicitaria, ma direi proprio della creazione di un immaginario per il nostro paese, e in particolar modo dagli anni 60, ma fino ancora fino a fine millennio e inizio del nuovo millennio, non possiamo non confrontarci con l'immaginazione produttiva, i suoni, i disegni, il carosello, l'invenzione di questo genio della comunicazione. Perché questo accada però in un museo d'arte moderna è presto detto. Intanto Armando Testa conosceva, frequentava l'arte e dichiaratamente l'ha anche considerata in molti casi fonte di ispirazione per le proprie creazioni. E noi proprio su questo punto ci siamo intromessi, senza rendere noioso Testa, anzi cercando di corrispondere anche al suo umorismo, al suo carattere sempre gioioso nell'immaginare la vita moderna, perché questa è la tensione di Testa, immaginare continuamente la modernità, quindi partire dall'urgenza della vita e costruirne le sue manifestazioni, producendo anche suo malgrado forse un'estetizzazione della vita moderna che ci è diventata familiare, per cui credo che insomma forse non i giovanissimi, ma più o meno insomma le musiche dei Carosello, le canzoncine e gli slogan sono rimasti tutti nella nostra immaginazione assieme a quei grandi personaggi. Però voi in apertura avete fatto sentire appunto Carmen Fita, Caballero, ma la mia infanzia se le ricorda bene. E sarà un esercizio quasi non solo di memoria, ma direi quasi di psicanalisi collettiva nella scoprire perché quegli archetipi sono rimasti così fissati nella nostra testa. In buona parte della mostra ce lo racconterà lo stesso Testa attraverso filmati, documentazioni di sue interviste, che spiega ad esempio come mai Carmen Sita e Caballero nascono semplicemente dalla piega di un foglio, quindi costituendo quel corpo conico in relazione anche a molte forme dell'arte costruttivista, che ovviamente non è lecito conoscere nel dettaglio, ma certamente ha informato e ha costituito anche il nostro gusto moderno per le forme. E in un certo senso tutta la mostra, che si intitola infatti Tutti gli ismi, nel senso dei modernismi, come dice Armando Testa, sono rintracciati. E che meraviglia! Io sono contenta di questo immaginario, vita, che diventano arte moderna e che ci permetteranno di avvicinarci davvero all'arte moderna e al MART, che io non vedo l'ora di tornare a visitare. Devo ringraziare tantissimo il direttore Gianfranco Maraniello, grazie per essere stato con noi, tanto ci risentiremo al sabato del villaggio per parlare di questa mostra, va bene? Molto bene, ci risentiamo a luglio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie al direttore Maraniello. Noi ci facciamo una brevissima pausa, ma poi saremo sempre con Il Sabato del Villaggio in diretta da Trento. Il Sabato del Villaggio. L'impressione che siamo in atmosfera un po' indiana, mamma mia come sono acuta. Allora, secondo me cominciamo con l'India per parlare di libri con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, oggi praticamente in collegamento dal divano di casa mia, visto che tu sei a Trento. Esatto, un collegamento Trento-divano di Alessandra Tedesco, mi sembra perfetto. Allora, India? India, sì Marta, per due ragioni, sia perché questo libro di cui adesso vi parlo, questo romanzo, era veramente atteso da 20 anni un po' in tutto il mondo e qui insomma la curiosità inizia ad aumentare, e poi perché secondo me poteva ben rappresentare anche il tema del Festival dell'Economia di Trento, dove tu ti trovi in questo momento. Ricordiamo, quest'anno il tema del festival è la salute diseguale, quindi come le discrepanze, diciamo, economiche possono influire sulle cure che ognuno di noi deve fare appunto per star meglio nella vita. Allora, diciamo subito il titolo, Marta? Dai, ci siamo. Allora, il titolo è Il Ministero, attenzione, il Ministero, non il Mistero, Il Ministero della Suprema Felicità. È il nuovo romanzo dell'indiana Arundhati Roy, pubblicato in Italia da Guanda con la traduzione di Federica Oddera. Allora, perché dicevo che questo è un romanzo atteso da 20 anni? Perché Arundhati Roy ha scritto il suo primo romanzo nel 97, appunto 20 anni fa, ed era Il Dio delle Piccole Cose, che, Marta, aveva avuto un successo straordinario in tutto il mondo, ha venduto più di 8 milioni di copie. Accidenti. E anche in questo nuovo romanzo, appunto Il Ministero della Suprema Felicità, Arundhati Roy sostanzialmente mette in evidenza proprio il mix, il contrasto che esiste fra povertà e ricchezza, i contrasti che ci possono essere a livello umano, economico e sociale, anche in questo caso un romanzo ambientato in India, ed è per questo che l'abbiamo collegato appunto al tema del Festival dell'Economia di Trento. Allora, di che cosa parla questo romanzo, Marta? La trama è stata praticamente riservatissima, è stata tenuta segreta per anni. La scrittrice indiana, che nel frattempo aveva scritto una serie di saggi, lei tra l'altro è un'attivista politica, antiglobalizzazione, così via, veramente famosa in tutto il mondo, non voleva dare nessun particolare su questa trama. Allora, visto che il libro è uscito, quindi adesso la trama si conosce, noi però vogliamo far mantenere la stessa suspense, vi diciamo solo che si fa una sorta di viaggio virtuale nell'India, dai quartieri, diciamo, più poveri, insomma quelli veramente dove la miseria regna sovrana, a Delhi, alle aree invece altamente sviluppate dove ci sono i centri commerciali super scintillanti, diciamo all'occidentale per intenderci. E anche in questo nuovo romanzo di Arundhati Roy c'è sempre un po' una morale, nel senso che l'amore guarisce o quantomeno lenisce il male, le difficoltà della vita. Alessandra, a chi lo consigliamo? Agli ottimisti, direi. No, scherzi a parte, a chi ha voglia di immergersi in un romanzo, voglio dire, intenso, perché appunto racconta veramente tanti e tanti contrasti, e però che ha anche un animo poetico, e magari anche a chi sicuramente ha amato Il Dio delle Piccole Cose, che è stato appunto un romanzo rivoluzionario, perché era ambientato credo alla fine degli anni 60, insomma una donna indiana lasciava il marito che era violento, alcolizzato, però insomma il marito aveva una posizione molto alta nella società e lei addirittura si innamorava di un paria, insomma di un intoccabile, quindi anche in quel caso c'erano forti contrasti sociali. Quindi diciamo a tutti quelli che vogliono farsi shakerare dai mix e dai contrasti economico, sociali e umani della vita. Alessandra, rimaniamo in tema di economia con un altro libro? Ma sì, guarda, ho scelto un thriller, perché sai che i thriller sono amati moltissimo, soprattutto in questo periodo estivo, per svagarsi un po' sotto l'ombrellone, e allora ho scelto un legal thriller italiano, però italianissimo, ambientato nel mondo della finanza. L'autore è Pietro Caliceti, il romanzo si intitola Bit Global, anche in questo caso ritorna il tema della globalizzazione. Chi è Pietro Caliceti? Pietro Caliceti nella vita è un avvocato che assiste le banche, i fondi di investimento, le grandi società nel momento in cui devono fare le acquisizioni, per esempio. Quindi è un uomo che capisce bene di finanza, conosce tutti i retroscena della finanza italiana e internazionale. L'avevamo già conosciuto con un romanzo precedente, L'ultimo cliente. In questo caso invece Bit Global, pubblicato da Baldini e Castoldi, ci racconta di un mondo fatto appunto di avvocati. C'è sicuramente uno studio legale e qui, come dire, i due avvocati di punta si scornano per cercare di avere il controllo dello stesso studio legale. Poi naturalmente ci sono fondi di investimento, c'è Bitcoin, che è questa moneta virtuale di cui probabilmente negli ultimi anni molti hanno sentito parlare. E allora in questo legal thriller Bit Global diciamo che si assaggia uno spaccato, in modo anche critico, del mondo della finanza, come dicevamo prima, italiano e internazionale, sotto forma di thriller naturalmente. Mi incuriosisce molto, abbiamo ancora tempo per un paio di citazioni, cosa ci vuoi consigliare questa settimana, Alessandra? Allora, prima abbiamo detto che il romanzo dell'indiana Arundhati Roy era atteso da 20 anni, quindi sarà il caso editoriale di quest'estate, non solo in Italia ma anche in altri paesi, visto che credo sia stato tradotto in 19 o 20 lingue oltre l'inglese, insomma, quindi veramente tante. Possiamo dire che un altro caso, diciamo questo più italiano, è già ai vertici delle classifiche, è l'ultimo romanzo di Stefano Benni, che si intitola Prendi Luna, pubblicato come gli altri da Feltrinelli. Allora, per chi non conoscesse Stefano Benni, e sono pochissimi, si contano sulla dita di una mano, è quello che ha scritto Bar Sport, anche se lui non dico che rinnega quel libro, ma non gli piace parlare di Bar Sport, ha detto basta, lasciatemi in pace con Bar Sport, l'ho scritto, adesso vorrei parlare, insomma non è il suo libro preferito, La Compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita e tanti altri, insomma. Come sempre anche in questo Prendi Luna Stefano Benni ci presenta il suo mondo grottesco, onirico, surreale. Allora, cioè, Prendi Luna, chi è Prendi Luna? È una maestra in pensione, è una vecchia maestra in pensione che abita in una casetta nel bosco, quindi vedi già qua un po' favolistico. Le appare una notte un fantasma, ma non è un fantasma umano, è un gatto fantasma che le affida un compito. 10 gatti devono essere consegnati a 10 giusti. Che cosa c'è dietro questo compito? Beh, naturalmente ve lo lascio scoprire dalla trama, vi posso solo dire che diventa naturalmente un romanzo corale come la maggior parte dei romanzi di Stefano Benni. Incontriamo quindi tanti personaggi come per esempio Dolcino l'eretico e Michele l'arcangelo, ma poi ci sono degli ex allievi, diciamo, di questa maestra come Clotilde, la regina del sex shop, e Fiordaliso invece, che è una geniale matematica. Insomma, anche in questo caso Benni, attraverso l'ironia e il senso del grottesco, fa anche una critica a molti aspetti della contemporaneità. Alessandra, con cosa concludiamo? Qual è l'ultimo consiglio di questo Sabato del Villaggio? Concludiamo ridendo, Marta, perché io mi sono divertita parecchio a leggere questo Se prima eravamo in due di Fausto Brizzi, pubblicato da Einaudi. Fausto Brizzi, famoso regista, Notte prima degli esami e così via, ma ne avevamo parlato di Fausto Brizzi come scrittore anche nel momento in cui aveva scritto Ho sposato una vegana, che era un libro veramente divertente sulla vita con sua moglie, quindi storia vera, che è vegana, ma sai, di quelle proprio ortodosse, oltranziste, diciamo, estreme, ecco, non mi veniva bene il termine. E già in quello ci eravamo divertiti. Invece Se prima eravamo in due è la storia di Fausto Brizzi diventato papà, quindi diciamo anche in questo caso molto ironica, tant'è vero che la frase che è scritto in esergo di Achille Campanile: quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. E poi la convivenza in casa con un bambino nel momento in cui appunto arriva un'altra creatura in una famiglia, Fausto Brizzi scrive: dividereste la casa con una coinquilina che se la fa addosso, piange di notte per motivi non identificati, lascia tutti i suoi oggetti in giro, occupa la stanza migliore della casa, non contribuisce all'affitto e alle bollette, non cucina mai né fa la spesa, è taciturna e soprattutto umorale? Punto interrogativo. Beh, devo dire che mi incuriosisce molto. Lui è molto simpatico, lei è deliziosa e quindi lo leggerò sicuramente. Ma a chi lo consigli tu, Alessandra? Allora, sicuramente ai neopapà. A chi sta per diventare padre, a chi è diventato padre da poco, o a chi pensa di diventarlo, insomma, perché si affrontano appunto tutte le esperienze, dal momento in cui si fa il test a quando gli uomini si interrogano sul ruolo del papà, ai diversi compiti che bisogna insomma dividersi in famiglia. Insomma, è un modo ironico e divertente per affrontare la paternità. Mi piace molto. Alessandra, noi concludiamo sempre con il classico consiglio, che è quello del cacciatore di libri. Cacciatore di libri, se volete ascoltarlo in radio, vi dovete svegliare presto, il sabato mattina alle 6:30 oppure alle 22 sempre del sabato. Ma se non riuscite ad ascoltarlo in questi orari, naturalmente c'è sempre il podcast su radio24.it che potete scaricare e ve lo ascoltate quando meglio vi aggrada. Grazie Alessandra, al prossimo sabato, ciao! Baci, divertiti a Trento! Il sabato del villaggio. Allora ragazzi, ve l'ho annunciato, ci è venuto a trovare questa settimana nei nostri studi di Radio 24 a Milano un grandissimo attore. Sono stata contenta perché abbiamo fatto anche una diretta Facebook che potete trovare ancora sulla pagina Facebook di Radio 24, anche perché oltre a essere bellissimo è anche molto bello. Le signore hanno fatto un delirio in radio quando ci è venuto a trovare. L'intervista però è davvero gustosa. Tra qualche giorno, il 6 giugno, ci sarà il finale di stagione di 1993 su Sky. Io non vedo l'ora di vedere come finirà questa serie TV che io ho amato particolarmente. Vabbè, un piccolo assaggio. Mani Pulite è diventato un'indagine sul sistema. E il sistema sta già creando gli anticorpi. Con le TV e i giornali possiamo fare propaganda per un candidato. Per costruire bisogna prima distruggere. Che cosa ti sei messo in testa? Io con te non ci torno. Si sta infilando in un ginepraio. Ci sono abituato. Ci vuole coraggio anche per fare qualcosa di sbagliato. Mi hai sempre fatto paura. Se mi metti nei guai questa storia esce. Mi stai ricattando? È tangente al nord e la mafia al sud. Sono due facce della stessa medaglia. Sai cosa succede adesso? Adesso è tutti contro tutti. Manca poco, manca pochissimo al finale di stagione. Io mi sono appassionata tantissimo e, devo dire la verità, mi sono appassionata ancor più che in passato. Sto parlando di 1993, che ovviamente viene dopo 1992, ma verrà prima di 1994 e tra poco magari gli chiederemo qualcosa di più. E sono molto contenta di avere qui con noi Stefano Accorsi. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno. Non si dice più da un'idea di Stefano Accorsi, ci ha tenuto compagnia per un sacco di tempo. C'è solo scritto quest'anno. Hashtag Davide. No, è molto divertente. Però sto elaborando un altro progetto, sarà da un'altra idea di Stefano Accorsi. Così si fa. Dai, perché un pochinino ti si prendeva in giro. Ma era molto divertente. Io penso che alla fine, anzi, è stato cavalcata questa cosa, è stata buffa, però forse si rischiava l'eccesso se fosse stato anche su 93. Oppure sempre dalla stessa idea di, cioè, capito che... Dai creatori. Allora, lo dico, 93 è più bella di 92, a me è piaciuta di più. Te l'hanno detto... Guarda, ce lo dicono in molti. Noi abbiamo fatto apposta 92 bene, per fare 93 molto bene e per fare 94 benissimo. Ah, beh, bene. Ma te lo chiedo subito, 94 è già scritta, è già girata? Perché poi adesso spesso per risparmiare, per ottimizzare, si fanno insieme. O a che punto siete? No, i nostri creatori appunto stanno scrivendo. Nel senso che dall'uscita di 92, come sempre, c'è un tempo più lungo da fra la prima e la seconda stagione, perché si doveva vedere se incontrava, certo, la stagione. Per fortuna da subito, il Festival di Berlino, tanti, più di 100 paesi nel mondo, quindi è una serie che sia in Italia e anche all'estero ha incontrato tanto. E da quando hanno confermato 93 ci si è messi subito, i sceneggiatori, i creatori, sono messi a scrivere 93, e siccome ci seguono anche sul set, questa è una cosa molto bella, cioè noi non abbiamo uno showrunner, sono tre. Tre, però adesso il gruppo di sceneggiatori da tre sono diventati cinque e hanno appena finito 93 cominciato a scrivere 94. In quegli anni lì eravamo noi della nostra generazione, 15-20 anni diciamo come età. Perché a te è venuta questa idea? Perché ti erano rimasti dentro? Perché quegli anni avevano lasciato un segno? Perché ti sei così, li hai rivisti dopo e hai detto questo poteva interessarmi? Guarda, una volta quando preparavo Leonardo Notte, il personaggio, e lavoravo per 92, una persona con la quale lavoravo, una coach di recitazione, mi disse quest'idea non ti è venuta 3 anni fa, ti è venuta 25 anni fa. Ed effettivamente è vero da qualche parte, nel senso che da Mani Pulite in poi mi sono molto appassionato alla vita politica, come penso molti miei coetanei del nostro paese. Ho sofferto molto per la nostra vita politica, non ho mai più mollato l'attenzione e ho trovato su quel tema, e ho trovato a un certo punto che mi era venuta voglia di raccontare quegli anni, ma non dalla parte mia, fra virgolette, ma mi è venuto proprio il desiderio di raccontarla da parte di chi ha vinto e ha fatto quell'Italia per più di 20 anni. E mi ricordo benissimo il 92, il 93, il 94, cioè tutti questi fatti, molti di questi fatti me li ricordo. E quando Berlusconi scese in campo e chiamò il suo partito Forza Italia, e c'erano i mondiali nel 94, cioè quindi davvero il nome del suo partito, volenti o nolenti, lo hanno pronunciato tutti quell'anno. E quindi per dire con quale forza è entrato nella quotidianità, no, delle persone, perché io mi ricordo che Forza Italia... Non mi veniva più da dirlo. Cercava di trovare altri. Sì. Guarda che incredibile, comunque. Cioè, c'era chi magari invece era felice di coniugare le due cose e chi non lo era. Io una notte sognai che Berlusconi era mio padre. Questo sì. Veramente è materia per lettini di psichiatri. E sai cos'è la cosa interessante? Che ero angosciato, ma lo amavo. È interessante questo. Molto interessante. Sì, perché secondo me poi Berlusconi... E la stessa cosa secondo me è quello che succede in 93. È come se noi legittimassimo una serie di atteggiamenti e di cose che fanno parte, a parte dell'essere umano, ma degli italiani. Hai citato Berlusconi, posto che credo che non possa mai confessare di possedere un abbonamento Sky, non credo che lo possa dire. Tu sai se l'ha vista, le ha viste 92-93, hai avuto notizie di sue reazioni? Non ho avuto notizie di sue reazioni. Onestamente non lo so, non lo sappiamo. Forse posso dire che la prima di 93 comunque abbiamo saputo che c'erano persone di sua fiducia che sono venuti a vedere. Sì. Sì, secondo me controllavano che lui fosse venuto abbastanza carino. Non lo so, secondo me era così. Comunque, state scrivendo 94, quindi tu hashtag un gruppo, da un'idea di hashtag. Esatto, sempre da quella stessa, ecco, idea. Però ti chiedo uno sforzo di immaginazione. Secondo te adesso Leonardo Notte che cosa farebbe nella vita? Adesso intanto, cioè, cosa sarebbe diventato un uomo secondo te di 60-65 anni? Sai che secondo me è uno che se l'è cavata e che non lo so, che ha saputo consolidare il suo potere, non so se... Secondo me Leonotte, la cosa bellissima è che cade, cioè magari non cade sempre in piedi, ma si rialza sempre. Questa è una cosa che mi fa impazzire del personaggio, cioè è un uomo che passa le volte indenne attraverso delle cose clamorose, grazie anche alla sua voglia di uscirne. Sicuramente avrebbe continuato ad uscirne. Non lo so se sarebbe rimasto nel pubblico, non credo, è più un uomo da privato. Ah, ecco, questo è interessante. Ci siamo infilati in una serie di interrogative indirette e ne siamo usciti indenni. Cioè, è rimasto nel pubblico rispetto a 94, certo, perché il 93-92 ancora lui col pubblico ha poco a che fare. Certo, è ancora, sta ancora prendendo dei calci in questo, in attesa del finale di 93, lo vediamo bello malconcio. Qualcosa del cinema però te la devo chiedere, perché c'è stato Cannes, sei in sala, una bella avventura anche questa, l'ultima con Sergio Castellitto. Sì, Fortunata di Sergio Castellitto, scritto da Margherita Mazzantini. La Trinca ti ha fregato perché il premio l'ha preso lei. Lo so. Mannaggia. Infatti non la stavo per citare, però l'hai citato. Cosa posso fare? Jasmine è stata molto brava e quindi sono molto contento per lei. Certo, se lo davano a me ero più contento, però è chiaro. Però ormai dico la verità, come Leonardo Notte. No, Leonardo Notte non dice sempre la verità. Chiuso la parentesi, no, è stata una bellissima, bellissima emozione. Cioè già il fatto di essere presi ad un festival così importante di cinema, dove ogni anno ricevono 1.500-2.000 proposte, e alla fine scelgono le varie giurie selezionatrici, scelgono 50, 60, 70 film, è già bellissimo esserci, e in più la proiezione in sala è davvero emozionante, perché essere in quella sala che ha tutta quella storia davvero è emozionante. Poi il film è stato accolto molto bene, venduto, è una vetrina, anche è un mercato, facilita molto le vendite nel mondo, insomma, quindi è stato venduto già in tanti paesi. Oltre quindi all'aspetto bello, emozionante, c'è anche un aspetto di soddisfazione, anche perché io credo che noi facciamo questo mestiere, perlomeno il modo in cui lo faccio io, se io racconto una storia voglio che ci sia qualcuno ad ascoltarla. È così che faccio cinema, teatro e televisione. Il fatto che una serie come 93 si venda, o un film come Fortunata si venda e che sarà visto in altri paesi, a me dà ancora più gioia. Io amo la sala piena. L'amo a teatro e l'amo al cinema, penso come qualunque altro mio collega. Non lo faccio per me questo mestiere, anche perché costa un sacco di soldi fare un film o fare una serie televisiva. Sì, non tutti hanno idea di quanto possa, tantissimo, veramente. Tantissimo, tantissimo, cioè anche un film a basso costo, comunque parliamo di tanti soldi. E quindi il cinema è fatto per condividerlo in sala. È un'industria culturale. Assolutamente, quindi. Poi certo, il cinema sta attraversando un momento difficile, perché ha una concorrenza spietata, soprattutto quello italiano, dai grandi colossi americani, da tutta la televisione come si fa oggi. Quindi è chiaro che oggi creare un film che faccia venire voglia di prendere da casa, andare, la famosa, prendi la macchina, vai, cerchi il parcheggio e poi vai in sala a vederlo, devi toccare qualcosa di profondo nel pubblico, perché lo smuova a questo punto. Un annetto fa ho incontrato un signore che si chiama Luciano Ligabue, che presentava un nuovo disco, e io gli ho detto, ma questo non è un disco, questo è un film, dai che fai un altro film. E lui, no, assolutamente, smentisco, non è assolutamente vero. E invece io ho letto che no, si fa con Stefano Accorsi. Allora, non posso dire nulla. Mannaggia. Se non che concordo con te che sarebbe un bellissimo progetto di film. Mannaggia. Davvero, e che Rico sarebbe un bellissimo personaggio da portare sullo schermo. Io quando già lo vedevo la tua faccia, però chissà, rimane un wishful thinking. Ok. Stefano, ho visto anche delle tue immagini, ed è l'ultima cosa che ti chiedo, di correre. Sì, de macchine. Ok. No, ma sei matto. Ma no, ma assolutamente no, allora, ti racconto un retroscena. Sì. 2, 3, 4 anni fa a Venezia. Tu arrivi con una Lamborghini giallo limone. Sì. Mi costringono, una persona che tu conosci bene, che conosco bene sull'ufficio stampa, mi costringe a salire su quella Lamborghini. Okay. Mi portano a fare un giro. Sì. E io credo di morire. Ma come fa a piacerti una roba del genere? Cioè, come ti fa a piacere quella cosa paurosissima della velocità? Ma è colpa del film di Veloce come il vento? È una sicuramente roba... Veloce come il vento, a me i motori piacciono, forse sarà anche l'origine emiliana, però i motori mi sono sempre piaciuti. Non è un caso, tu hai citato la Lamborghini, si fa a Bologna la Lamborghini. La Ferrari si fa a Modena, la Maserati è nata a Bologna, è andata a Modena, cioè è chiaro, è la Ducati, un sacco di carrozzieri pazzeschi, quindi è proprio una terra in cui i motori sono molto molto sentiti. Sicuramente il film, che mi ha dato modo di andare in pista, provare le macchine, sicuramente la mia collaborazione con Peugeot, e io ho avuto questa occasione, certo. Nel senso che corro con una delle loro macchine da gara e mi diverto come un pazzo. Certo, c'è tanta adrenalina e c'è anche paura, ci sono quei momenti, dici, ma chi me l'ha fatto fare? Ma io me ne stavo così bene, stavo a casa, mi preparavo il mio ruolo. Non ho detto Rico, ho detto il mio ruolo. Uno a caso. E invece poi sei lì e c'è quell'adrenalina, e devo dire che... Sai cos'è? È bello se ti piace, anche avere queste scariche di emozione, di adrenalina, a un certo punto nella vita, cioè tu, per carità, continui a fare il tuo mestiere, ti piace, ti eccita, e sei sempre emozionato prima di un personaggio nuovo, e non ho detto Rico, dico un personaggio nuovo in generale, però questa è tutta un'emozione nuova dove ti devi rimettere un po' in gioco da zero. Ti manca solo un'emozione, sai quale ti manca? Quale? La radio, perché secondo me potrebbe, dopo quel film lì che ti impegnerà tanto e del ruolo misterioso, secondo me la radio, pensaci, potrebbe essere... Ci penserò, guarda, ma amo la radio e come sai ascolto Radio 24, ascolto tantissimo la mia app sul telefono. E però la radio in generale, anche quando sono in giro in tournée con il teatro e si fanno degli spostamenti in macchina, a volte brevi, a volte di ore, adoro la radio, perché è un modo attivo, secondo me, è un ascolto attivo, anche la musica è emotivamente attivo, però la radio magari ti fa anche, diciamo, arrabbiare a volte, magari ti però ti rende molto partecipe. E non sai quando prendi le curve in velocità in radio, che emozione. Grazie Stefano. Grazie a te, grazie a te, grazie tanto. Il sabato del villaggio. La faccio finita, è meglio sparire, zot. Vi lascio la fotografia, baciavo la carra. Faccio finita e fammi il piacere, cosa dovrei dire io, m'han sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, che lo sa, la prendo sul serio, sai, fuggiamo alla grande, partiamo da sta sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatore, neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatore, neanche da bere. Cosa facciamo? Facciamo che andiamo. C'è gente che ha pagato, non può finire qui. Ci stanno chiamando bacini, dai si va. Aspetta un momento, quella in prima fila mi ha guardato e ci sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone, neanche da bere sotto. E finalmente posso avere al sabato del villaggio anche Daniele Bellasio. Ma secondo benvenuto te, grazie. Ma secondo te potevo mancare alla possibilità, se non sapesse mio nonno che allora di incontrare. Per attrarre Daniele Bellasio un po' prima nello spazio del sabato del villaggio, io ho dovuto invitare un mito. Ho dovuto invitare il numero uno, perché secondo me ogni città ha le sue bandiere. Cioè, questo è interessante. Ogni città ha i suoi uomini e donne, ovviamente, che sono il simbolo appunto del luogo. Ci sono logo. Due simboli che sono contemporaneamente simboli del Trentino e dell'Italia: De Gasperi, sì, e l'altro, e Francesco Moser. Buonasera, Francesco. Io sono emozionatissima. Alla grande, noi qui al Festival dell'Economia di Trento. Sì, perché dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo dirlo. Volevamo incontrare veramente il mito assoluto di Francesco Moser. Allora, lo dico. Io ho detto a Daniele, andiamo al Festival dell'Economia di Trento, chi vorresti invitare? Lui mi ha scritto solo Moser. Ecco, ma però deve essere anche un peso, lo sente questo peso di essere un po' un campione, uomo simbolo ormai di una regione? Sono abituato e il problema è che magari devi fare tante cose contemporaneamente, corri qua, corri là. Sì, perché lei va ancora in bicicletta. Vado ancora fa in l'imprenditore con una lavoro cantina. In campagna. Anche sì, stamattina però... ho già fatto diversi lavori in campagna prima di ma venire qui. Ma il fisico qui. Così è per la bicicletta o per la campagna? Questa è una buona domanda. Io subito da signora e di noto e dico tutte e due? Tutte e due, perché io ho cominciato a correre a 18 anni e ero magro anche allora, perché negli anni 60 lavorare la campagna non è come adesso, si faceva tutti i lavori manuali quando era sera. Non è che avevamo tanto tempo da andare in giro, andavamo a dormire e basta. Poi dopo sono passato dalla campagna alla bici, che è ancora più pretenziosa per il fatto di sacrifici e di vita di un certo tipo, perché per correre una stagione intera o più stagioni, insomma, bisogna cercare di fare una vita sana, l'allenamento, tutto quello che c'è da fare, l'alimentazione, non è semplice, insomma, perché per me, per dire... Se vogliamo paragonare l'attività agricola o l'attività sportiva, sì, l'attività agricola la puoi fare in ogni maniera, però noi facciamo il vino, ma per avere essere campione del mondo del vino non è facile. Io in bici l'ho fatto facilmente. Il record dell'ora del capito, vino. Capito. Il record dell'ora del vino. Però poi è diventato anche imprenditore. Sì, io costruivo anche le bici, le bici esatto. Del record le avevamo costruite noi e anche tutte quelle che ho vinto il giro e tutto. Però dopo il 2000, quando è venuto fuori tutte le bici, queste marche americane, cinesi e tutto, taiwanesi, era difficile fare la concorrenza. A un certo punto ho deciso di smettere perché avevo le vigne e le bici, ho detto uno o l'altro. E ha scelto le vigne. E ho scelto le vigne. Daniele, quanti ricordi ti arrivano quando pensi a Francesco Moser e qual è il più bello? Ma sicuramente il record dell'ora, perché per il record dell'ora io ricordo appunto parlavo per settimane con mio nonno, che è veramente stato un grande appassionato di ciclismo, e di Moser sapeva tutto proprio, cioè era una cosa incredibile. Poi credo che il record dell'ora sia stato un evento proprio per il paese, no Francesco Moser? Sì, perché noi abbiamo scelto di fare questo record in gennaio. Tutti gli altri corridori hanno fatto i tentativi di record o alla metà stagione dopo le grandi corse a tappe perché erano in condizione, o alla fine di stagione a ottobre, anche Coppi e Baldini l'avevano fatto, ma anche Merz l'aveva fatto a ottobre. Certo. Invece noi abbiamo deciso, io con tutta l'equipe Enervit, di attaccare questo record alla fine di stagione. Abbiamo deciso durante l'estate dell'83 di tentare il record, e alla fine della stagione dell'83 ho cominciato la preparazione sia della macchina che del mezzo, diciamo. La macchina ero io, il mezzo era la bici. Io mi ricordo questa e la cosa bici che l'abbiamo costruita, ruote lenticolari, sì. Che era una cosa... Io la bici del record ce l'ho ancora a casa. Ah. E è la prima, quella lì è la prima bici al mondo che è stata costruita con le ruote lenticolari, eh sì. E utilizzata per il record. Poi dopo l'avevo utilizzata, fatta anche da strada per la cronometro di Verona, l'Arena, e ho utilizzato la bici uguale, altro che quella va i freni e il cambio, perché la bici da pista ha solo le ruote e i pedali, non altro. Invece la bici da strada, i freni e il cambio, che è tutto. Era un po' un evento nazionale. Dopo il mondiale dell'82, il record dell'ora di Moser dell'83, era un po' il simbolo di un paese anche in quella fase particolarmente fiero, ottimista. Sì, mi ricordo che avevamo fatto anche degli incontri con i giocatori alla televisione, a destra e a sinistra, con i giocatori che avevano vinto i mondiali. E quando io ho fatto il record, era arrivato giù a Città del Messico Berzotta assieme a Martini, che era il commissario tecnico del ciclismo. Esatto. E sono venuti assieme, hanno assistito al record, perché Berzotta doveva vedere gli alberghi, i campi dove avrebbero fatto il mondiale 2 anni dopo. Incredibile. Ma la magia del ciclismo si può ritrovare come quella di quegli anni, dopo tutti i dispiaceri, soprattutto i dolori che hanno provato gli italiani? Io per esempio mi sono disamorato dopo la storia di Lance Armstrong, lo ammetto chiaramente, sono stato un grande tifoso di Lance Armstrong. Lì Armstrong si sapeva che, siccome lui ha avuto il cancro e aveva la licenza di usare certi medicinali, si sapeva. Dopo non so quali e quanti, perché queste sono cose riservate che noi non lo sapevamo, però si sapeva che lui poteva prendere certi medicinali, io non sapevo quali perché non lo dicono. E anche questo fatto che ci sia il controllo antidoping e poi qualcuno riesce ad avere, perché ha una malattia, un'allergia, a prendere medicine, poi lì il confine è sempre molto labile, sì. Diciamo. Però ci sono delle regole che è difficile far rispettare, però non è solo nel ciclismo che esiste questo problema, perciò certo. Lo sport lo sport agonistico si può dire che ha più o meno i problemi, specialmente gli sport di durata, dove c'è bisogno di... Semmai il ciclismo ha pagato di più e anche per altri sport. Ma quella magia che diceva Marta si ritrova, si ritroverà, si sta ritrovando. Si ritrova. Il problema è trovare i personaggi adatti. Oggi, se guardiamo con la globalizzazione, abbiamo molti meno corridori in Italia. Se pensiamo che quando correvo io, quegli anni lì, fra Saronni, fra io e tutti gli altri che c'erano, avevamo il maggior numero di squadre e di corridori in Italia in quel momento, e tanti corridori stranieri venivano a correre nelle nostre squadre. Con me ha corso De Vlaeminck, Thurau, Brown, De Vita, adesso tutti non me li ricordo neanche, avevamo anche degli inglesi, degli australiani, che erano i primi che arrivavano, perché prima il ciclismo era una cosa della vecchia Europa, diciamo, Spagna, Italia, Belgio, Francia e poi un po' la Svizzera, qualcosa la Germania. Poi hanno cominciato a arrivare qualche svedese, qualche inglese, e dopo, quando è aperto il muro, lì dopo è arrivata l'invasione dei paesi dell'est, dopo è arrivato tutto, anche l'America, il Sud America. Oggi abbiamo i due più grossi corridori, che sono colombiani, fra Gaviria e Quintana, sono i due più vincenti che esistono. E però devo citare il nostro collega Dario Ceccarelli, che mi ha detto: siccome a Trento vedrai Moser, digli che lui è stato l'unico a capire come si sarebbe concluso questo Giro d'Italia, che aveva previsto. No, ma lui è un corridore che alla Vuelta ha perso l'ultima tappa ad Aro 2 anni fa. Era lì in corsa fino all'ultimo e ha mollato praticamente sull'ultima salita. Quest'anno ha rischiato quasi quello, perché il giorno di Asiago e anche il giorno dello Stelvio, insomma, l'ha messo alle corde, però ha resistito, ha inseguito con la cronometro, che comunque c'è da dire, il Giro d'Italia è sempre sbilanciato a favore degli scalatori. Perché quindi lui è stato bravo. Tappe di salita ce ne sono 8, 9, anche 10 talvolta. Delle tappe a cronometro ne sono 2. Che meraviglia. Ho letto che avrebbe voluto correrla, quella di cronometro a Milano. No, quelle due, anche quell'altra era un percorso che mi sarebbe andato bene. Quella del Sagrantino giù a Montefalco, perché l'ho fatti i percorsi tutti e due la mattina. Noi facciamo il percorso in bici con i clienti della noi facciamo banca. Il percorso in autobus al massimo, in metropolitana, proprio quando siamo sportivi, quando siamo atletici. Grazie Francesco Moser per essere stato con noi. Non so, io sono emozionatissima, perché per me è veramente una leggenda. Una volta dobbiamo fare una trasmissione io ho il museo di tutte le mie bici e che è qua vicino. Veniamo, una volta venite su e facciamo la trasmissione da lì. Andiamo, grazie a Francesco Moser. Daniele, noi ci sentiamo tra poco, RadioTube, GR, poi ci cambiamo d'abito, ci cambiamo di maglia tra poco.